Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Secondo uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali, in Italia in 20 anni una parte consistente del PIL si è spostata dai salari ai profitti. In sintesi, dal 1985 al 2005 la quota di PIL che andava ai profitti è passata circa dal 23 al 31%. Sempre nello stesso periodo la quota di PIL per i salari è scesa dal 76 al 68%. L'8% del PIL ad oggi corrisponde a 120 miliardi di euro. In questi anni, quindi, i 120 miliardi di euro ogni anno sono stati spostati dai salari alle rendite. Francesco. Siamo in un momento di crisi epocale. Molti non ne sentono ancora gli effetti, altri invece, i più deboli, li stanno già sentendo. Alcuni si beano del fatto che l'Italia sia un paese sui generis, con altissima evasione fiscale e un sistema delinquenziale eretto a sistema, nella speranza che questo ci renda più forti nella situazione attuale, mentre invece ci rende indubbiamente più deboli. Evadere le tasse, giuste o sbagliate che siano, è un reato. Significa mentire al proprio popolo. Nessuno negli Stati Uniti si sentirebbe in dovere di evadere le tasse solo perché i proventi di queste, ad esempio, sono destinati in gran parte per fare guerre. Prima le si pagano fino all'ultimo centesimo, poi si cerca di contribuire ad indirizzarne i proventi nella direzione che si ritiene più giusta, in modo democratico. Negli stati con la S maiuscola stanno sorgendo movimenti di opinione che chiedono, ad esempio, maggior giustizia salariale. Gli stati con maggiore equità sociale sono anche quelli dove si vive meglio. Pensate ad Olanda e Russia ed avrete i due estremi. Se vogliamo frenare o forse governare questa crisi, dobbiamo contribuire a far passare un movimento d'opinione che metta al centro questo argomento. Maggiore equità, miglior redistribuzione, maggior condivisione degli obiettivi e maggior senso dello Stato. Ci sono anche nel nostro paese imprenditori la cui etica e la cui morale hanno contribuito a creare anche la loro fortuna, che ora si trovano in difficoltà, ma non dimenticano chi li ha fatti crescere. Queste aziende, spesso piccole, vanno aiutate. I fondi pubblici vanno principalmente indirizzati a loro. Poi ci sono le aziende che cercano invece di sfruttare il momento di crisi per fini diversi, cercando di accedere a fondi non di loro spettanza e cercando di far passare misure che non sono strettamente di sopravvivenza. È necessario smascherare chi si vuole servire della crisi per motivi privati. Non bisogna drenare risorse che potrebbero essere utilizzate per situazioni veramente importanti solo per sistemare qualcosa in casa propria. La regola deve essere: a situazione di crisi si risponde solo con strumenti di crisi, ovvero strumenti temporanei. Ma se si vanno a toccare in modo definitivo i livelli occupazionali, ciò non deve essere concesso. Alex. Scrivo a proposito delle forme estreme di protesta contro la disoccupazione messe in atto in questi giorni. Vorrei far notare a quanti sostengono le ragioni di chi protesta contro il sistema, fino ad arrivare alla delinquenza, che costoro, nella stragrande maggioranza dei casi, sosterrebbero modelli socio-economici che, là dove implementati, hanno creato condizioni di vita ben peggiori di quelle che anche il più sfigato dei disoccupati, figlio di questa crisi, si trova a dover affrontare. Personalmente mi tengo il precariato. Ho provato a stare un anno senza lavoro, dall'ottobre 2003 al settembre 2004, e le insicurezze derivanti, piuttosto che vivere in regimi comunisti o nazifascisti. Vogliamo ricordare i risultati delle pianificazioni leniniste prima e staliniane poi, gli sfasci del ventennio in Italia e la distruzione della Germania, la fame della Cina maoista, le mattanze dei Khmer Rossi o Cuba, che ha dovuto costruire un'economia parallela e sotterranea, facendo diventare l'isola un bordello a cielo aperto. Se la passano meglio i nordcoreani o i dipendenti di un call center nostrano? Capisco i tempi difficili, ma proprio perché difficili, com'è possibile dare credito a bande di delinquenti, per di più idioti? Roberto, Milano. Certo che a non aver responsabilità di governo è molto facile dire parole facilmente condivisibili che fan presa sulla gente, su cui chiunque sarebbe d'accordo. Chi non darebbe un bel assegno tutti i mesi a chi ha perso il lavoro? Chi non farebbe assumere tutti i precari con un bel contratto a vita? Chi non aumenterebbe le pensioni poverelle degli anziani per farli vivere nel benessere? Tutti bisogna fare, tutti si deve dare, che l'opposizione si sforza di far accettare al governo, rappresentano spesso solo scontati desideri e facili soluzioni non attuabili. Sono solo parole espresse nella consapevolezza che mostrare di capire chi vive un disagio aiuta a recuperare fiducia e consenso. Ma si sa che, fra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. Sarebbe molto facile poter realizzare le cose che appaiono giuste, ma i bilanci di un paese non sempre, anzi quasi mai, consentono di farlo. E la gente ora lo sa, che questi anni saranno duri per molti e che non si potranno risolvere con le parole i problemi che richiedono elargizione di denaro pubblico. Siamo tutti in grado di parlare bene e sfoderare generose soluzioni. Anche il governo è capace di pensarle, solo che non può permettersi economicamente di concederle. Lettera firmata. Qualche giorno fa, un vostro ascoltatore ha diviso la popolazione italiana in percentuali. Il 30% è onesto, il 40% in bilico, il rimanente 30% truffaldino o fannullone. Ammesso che sia così, non credete che gli italiani tutti, compresi quelli definiti onesti, abbiano bisogno di referenti politici responsabili e leali, a cui affidare il proprio mandato e quindi il futuro del proprio paese? Per l'educazione che ho avuto, non sono mai sceso e probabilmente non scenderò mai in piazza, perlomeno non a manifestare in maniera violenta. Ma in virtù della stessa educazione, sono indignato ogni giorno di più per come la classe politica e dirigente si comporta. Noi, comuni cittadini, cerchiamo di vivere al meglio delle nostre possibilità, ma io, da italiano, vorrei di più. Vorrei inoltre commentare la dichiarazione fatta da Beppe Grillo in TV la settimana scorsa, che considerava un segnale positivo il fatto che adesso in Francia sequestrano i manager. Forse questa non sarà una buona notizia, come dice lui, ma non credo che quelli che fino al giorno prima erano onesti lavoratori della fabbrica, il giorno dopo provino divertimento a giocare a fare i delinquenti. Credo invece che qualcuno ce li abbia portati a compiere quel gesto. Poi è vero che a pensare male si commette peccato, ma a volte questo sembra l'unico linguaggio in grado di cambiare qualcosa. Basta pensare al fatto che nessuno dei mascalzoni della casta, una volta smascherato, ha pensato di dimettersi, scusarsi in pubblico o semplicemente vergognarsi. Tutti, invece, a difendere l'indifendibile, esponendo la loro unica vera virtù, la capacità di intortare la verità con la dialettica, le bugie e l'inganno. Enzo. La paura, purtroppo, è tornata a presentarsi sempre più spesso di questi tempi come in un nuovo medioevo. E mi ricollego alla notizia degli autobus di Foggia riservati agli stranieri, dicendo che qualche giorno fa ho partecipato a un incontro con l'assessore alla sicurezza di Montebelluna, in provincia di Treviso, dove gli abitanti sono disperati per l'elevato numero di extracomunitari presenti in zona. In particolare nella zona dove vive mia madre, 85enne, che si guarda bene dall'uscire dopo le 5 di pomeriggio. Preferisco lasciare alla vostra immaginazione particolari su arroganza, risse, immondizie, igiene e sul fatto che mia figlia, di 21 anni, non ha il coraggio di andare a trovare la nonna. Purtroppo ho smesso da un pezzo di essere tollerante, perché avendo vissuto a Nuoro negli anni bui del banditismo e avendo avuto un sequestro in famiglia, torno oggi a provare, nel Veneto, dove vivo, una paura e una rabbia infinite per tutto ciò che non si riesce a fare al fine di far rispettare a questa gente, con le buone o con le cattive, le regole della nostra convivenza civile. Vorrei riuscire a farvi capire a quale punto di frustrazione si possa giungere quando uno dei sequestratori di mia cugina è stato rilasciato dopo soli 5 anni e una serie di clandestini, già espulsi per 3 volte, sono ancora sotto casa mia. Fulvio. Mi sembra che quando l'opposizione fa l'opposizione, ovvero esplicita posizioni e argomenti diversi da quelli della maggioranza, questo non venga accettato, per poi passare a lamentarsi in ogni occasione di un'opposizione inesistente. Accettare manifestazioni di dissenso democratiche, accettare opinioni diverse, posizioni diverse, senza sarcasmo e senza sfottò di lontana memoria, mi sembra non sia nel DNA di questa maggioranza. La macelleria sociale non ha mai portato lontano, così come non rispettare gli avversari politici e le istituzioni. Non rispettare poi chi, in maniera democratica, tenta di svolgere un compito di argine a posizioni che sarebbero ben più radicali, ricomponendole per trovare un dialogo costruttivo, conoscendone l'effettiva forza e onestà intellettuale, anche se su posizioni differenti, mi sembra deleterio per il paese tutto, per il futuro del paese. Mi auguro che atteggiamenti, comportamenti e commenti calino di tono. Ognuno faccia il proprio lavoro per il paese, anche se difficile, ma rispettando regole democratiche e libertà dell'avversario. Forse lo stress derivante da una situazione economica difficile non è sopportabile da chi è abituato a fare le cose facili a parole. Alessandro. Prendo spunto da un servizio di Striscia la Notizia nel quale si evidenziavano le difficoltà nei tentativi di contattare i parlamentari della regione Sicilia per farli rispondere a quesiti posti da un cittadino. Quanto descritto da Striscia accade anche nei confronti dei parlamentari nazionali. A che serve inserire l'indirizzo email presenti sui siti di Camera e Senato se poi contattati con tanto di nome, cognome e indirizzo sulle problematiche del mio settore, oppure per chiedere chiarimenti o dare notizie più esatte di quanto stanno magari discutendo in quel momento, non si degnano, salvo rarissimi casi, di rispondere. Nel mondo contemporaneo della comunicazione, a che pro questa casta ignorante e sorda disprezza così tanto il contatto con la realtà e dove per essere ascoltati occorre magari finanziare un loro convegno perché così fanno bella figura? Infine, una precisazione. Le precedenti rappresentanze parlamentari erano un pochino più loquaci a rispondere, mentre ora faticano enormemente a esporsi e si trincerano dietro il loro sordo silenzio. Eugenio. Vorrei solo dare un'avvertenza per quanto riguarda il secessionismo in Alto Adige. Io trovo un fatto scandaloso che ci siano membri di un consiglio provinciale della Repubblica Italiana che rifiutano l'unità nazionale, parlando apertamente di autodeterminazione. Recentemente sul canale locale di lingua tedesca della RAI, RAI Senderbozen, Reinhold Messner e Seven Knoll erano entrambi convinti che si dovesse dire addio all'Italia. Pur essendo comunista, vedere questo espansionismo germanofono mi rende molto aggressivo. Prima erano fieri di essere i migliori fascisti, ora gli espansionisti sono convinti di essere i migliori antifascisti. Non conosco nessun altro Stato con consiglieri che vogliono violare l'integrità dello stesso paese. Alessandro. La ruota dentata, l'elettricità, la lampadina, la vite filettata e quant'altro l'uomo ha inventato o scoperto sono mezzi di grande e indiscussa utilità, come lo è l'informatica, come lo sono i telefonini cellulari, come l'automobile. Tanto di cappello all'uomo che ha saputo usare il proprio ingegno per migliorare la qualità della propria vita e del lavoro. Randellate, invece, all'uomo e alla donna, che prigionieri dell'abitudine fanno uso sistematico del telefonino mentre sono alla guida dell'auto. Proviamo a chiedere alla polizia stradale, alle aziende ospedaliere, alle ditte di pompe funebri quali dimensioni ha l'ecatombe provocata dal mix narcotizzante telefonino guida. Le decine o centinaia di migliaia di persone che guidano in preda all'alcol o alla droga, facciamole andare a piedi. Così gli passa la sbornia. Ai milioni di telefonino dipendenti alla guida, leviamo il cellulare che distoglie mani e mente dal volante. Se si ribellano, mettiamoli sul furgone cellulare per i prigionieri, perché sono dei criminali in pectore. Agli imprudenti o incoscienti o fuori legge, che creano o subiscono incidenti sul lavoro, mandiamo giustamente insulti e accuse, e non concediamo attenuanti. Perché non dovremmo farlo? E con più vigore verso chi, come sopra, mette a repentaglio la propria vita e la altrui a cavallo di una potenziale autobomba, lanciata a 100 all'ora e con radiocomando innescato via etere. Aurelio. Su Sky ho visto molte riprese di persone estratte dalle macerie che avrebbero meritato un po' di rispetto per la privacy. Un uomo appena estratto dalle macerie, sorretto da due soccorritori, è stato seguito a lungo dall'obiettivo, nonostante fosse in mutande. Ho visto dei soccorritori tentare invano di alzare in gruppo le mani per proteggere la privacy di una persona che veniva estratta dalle macerie. Uno ha anche tentato di girare la telecamera di Sky. Qualcuno ha anche gridato loro sciacalli. La giornalista ha commentato che stavano facendo il loro lavoro. Vi prego di sollevare questo problema. Non è una cosa da poco. Roberto. Stiamo tutti ascoltando sbigottiti le notizie sul terremoto d'Abruzzo e infastidisce quasi intercettare altre notizie che parlano di crisi e problematiche politiche. Questa tragedia ridimensiona tutto e argomenti che aizzano discussioni e battibecchi diventano banali, piccoli, quasi stupidi. Chi oggi avrà il coraggio di parlare della propria crisi, dei propri piccoli problemi di vita, del ritardo di un treno, della coda alla posta o del diritto più o meno possibile di allargare la propria casa? Oggi, che la casa molti la vedono solo nei loro ricordi. Oggi, lamentiamoci un po' meno, nel rispetto di chi ha gravissime realtà da affrontare. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.